storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera. Come ogni domenica, buonasera da parte di Gesi. E di Antonio. Allora Antonio, tutto bene? Beh sì sì, diciamo che la facciamo andare naturalmente. È andata via il raffreddore. Ma non del tutto, però non badiamo a queste sono sciocchezze. Ma è lento da passare, molto, è lento. Molto. Beh, ma noi lo combattiamo con diciamo lo spirito delle nostre amiche e dei nostri amici che sì, ci ascoltano. E anche del nostro regista che è sempre presente. Come... Esattamente. Io lo chiamo sempre il mio angelo custode, e quindi è il nostro angelo custode. Perfetto, quindi noi ribadiamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e altro 346 26 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Ribadiamo di nuovo un cordiale saluto al nostro regista e alle amiche e agli amici lontani, soprattutto sì, quelli sì. più lontani. Ogni settimana mi chiamano, mi dicono: abbiamo ascoltato la trasmissione, bene bene. E questo ci gratifica oltremodo, appunto, anche perché appunto stiamo diciamo espandendo senza ambizioni naturalmente. Eh beh, noi non abbiamo mai ambizioni. Esatto. Antonio, chi abbiamo stasera? Questa sera abbiamo una gentile ospite virtuale che è Franca Turchetto. Che quindi si parlerà di Venezia. Venezia, naturalmente. Benissimo. Allora, prima ci ascoltiamo una canzone. Che dici? Naturalmente. Bene. Allora, te la ricordi? Venezia, la luna e tu, cantata da Umberto da Preda. Alfiere della canzone veneziana. Sì. Passano sul mar le gondole, placide tra i sogni d'oro, ed ogni gondoliere con nostalgia sussurra la canzone sua d'amore. Venezia, la luna è stanotte questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna è laguna, l'amor ci affingerà, tra un sussurrare di dolci cantilene, poi baci ti dirò, ti voglio bene. Grande sogno che non si scorda più. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo subito al telefono la signora Franca Turchetto che ci parlerà. Pronto? Pronto. Ciao Franca. Ciao Franca, ciao buonasera. Franca. Buonasera. Saluti. Antonio, e buonasera. Bentornata. Grazie a voi che mi dà questa possibilità di poter chiacchierare un po' con Camille. Ah, ecco. E stasera di cosa ci parlerai stasera? Ascolta, dato che mercoledì è il giorno di San Marco, sì, mi se gradì vi racconto, diremo con parole povere, la leggenda del Bocco. Sì. E dopo parleremo un fiantin di questo benedetto santo che ha una storia infinita che ne finisce più. Benissimo. Se parla più di San Marco che di Gesù Cristo. Va bene. Allora a te la parola. Allora andiamo col Bocco. Sì. Allora, ste tenti. Vi dico come che fosse una fiaba, va bene? Bene. Non stavi indormenza. No, no. In un paio sotto, in riva a una gran via di acqua, che poi sarebbe diventata il Canasso, cioè il Canal Grande, sì, di viveva Maria Partecipassio, e era figlia unica di un fior, un fiorotto, insomma, da dove in seguito sarebbe passata una sfilza dei dogi, cioè i Partecipazio, i primi dogi che governà la Serenissima. Mm. Sta Maria era piena di virtù, a dir poco, bellissima. Beata lei. Eh sì, era proprio bea. E dai suoi occhi mori nasceva una luce viva, espressiva, che brusava tanto da essere chiamata vulcana. E aveva due occhi neri, fa conto che c'era due carboni. Mm. Tanto bei che c'era, giustri, ti sanno, so se si metteva e giosse de coiri. Non credo, allora... Allora, tu ti perdeva la testa per sta figlia e per qui oggi, ma a Puareta non faceva niente per farsi notare, anzi, e cercava di scondere questo suo dono della natura sbassando lo sguardo. Cioè, come che era già anche timida, oltretutto. Sì, sì. Però una simpatia per un tosetto l'aveva, e sto tosetto si chiamava Tancredi. Era bello un caiù come il sol, gentile, che gli faceva una corte d'amati. E se era talmente in coca io che, insomma, non ne poteva più da tanto amor che aveva. Però io c'era de bando, non aveva lavoro, non c'era signor, e per dietro faceva il trovatore. Non so se che a volte i trovatori erano come quei di alto medioevo che faceva serenate con la chitarra, non so cosa che cantava. Ma più o meno i trovatori. Sì, ma c'è il trovatore, c'era già un mestiere. Sì, sì, insomma, sì. Questo qua non io considera. E per il padre di Maria non gli andava proprio per niente. E ora gli diceva, non può una tosa figlia di un obie a mettersi col primo fiol d'un can. E tra i agrimi sospiri i due spasimanti passava i pene dell'inferno. Non che c'era ciò via di scampo, ma è a Vulcana che viene in mente una soluzione. E che questo che io, cioè a mia voce, del toso, era questo che se arruasse nell'esercito di Carlo Magno, il gran signor di Franchi, perché ora, essendo da militare, combatte una guerra contro i saraceni, se tornava, insomma, un fiantin con qualche grado, forse suo pare che sarebbe piacesto di più, no? E infatti, è il parte, buttandosi avventura. Passi i giorni, i mesi, ma sto benedetto Tancredi dalla guerra non torna. Nel furor della battaglia, snervà, sfinio, esausto e ferio di brutto, da una lanza che lo ha passata da una parte a st'altra, a un certo punto si cassa bocconi per terra, buttandosi solo un roser. E ai soccorritori, arrivai massa tardi per dargli, diremo, aiuto, e fa in tempo di consegnargli a un compagno un bocco bianco de rosa, che, essendo ferio, io lo ha imporporato il suo sangue. E sta rosa, io, che dà l'ordine di portarla a Venezia con l'ultimo suo respiro per Maria, perché è morto. Strassata da 2 ore, senza più agrime, senza favea in goa, era ancora calpegno d'amore stresendo al petto, e a se sera in camera, e non avverse più a nessuno. Il giorno dopo, quando la cameriera batte a porta, non che si è disposta. La trova destirata sul letto, ben composta, e tra le sue bianche mani incrosai sul petto e stringeva che il boccoetto di rosa diventa rosso, color del sangue del suo amore. E era il 25 di aprile, giorno di San Marco. Da sta data, più di 100 anni, tutti gli uomini di Venezia, tutti dico, i che dona e donna amata sto bocco rosso come simbolo di amore eterno che non conosce età. Tutte veneziane va pomposi in giro, facendo mostra di sta galanteria. Beh, giovani, brutte e per tutte dogaresse, va bene? Prima mi. Quindi quanti boccoli avrai preso nella tua vita, Franca? Sono mia da che mi ho messo femur. Ah, quindi sì, mio ho sempre avuto, ancora adesso che sono grande. Perché sarà un rinnovo, una dichiarazione d'amore tutto l'anno, che ogni anno si rinnova. E io che ti pensi, ora che adesso sto bocco io vendo tante società che ho bisogno di finanziare per la Croce Rossa, però non sei bocco i veneziani, perché una volta si comprava solo dal fiorista, gli costava magari qualcosa di più, però il bocco di veneziano adesso è ongo, che deve il manico ongo come minimo 1,10 m, 1,20 m. Come le rose baccara, mi pare. Non so, so che è una rosa, diremo, no, una rosa, un bocco che dopo diventa rosa, che è proprio una semenza, una razza, che è proprio specifica per l'occasione. Specifica per l'occasione, se il bocco di veneziano non ha paragoni. Quindi chissà quante rose per Venezia il 25 aprile. Ma ti vedi, Gesi, per Venezia che sei appunto società dell'Aido, della Croce Rossa, e ora non c'è più chi bocco, sei tutti messi dentro l'astuccio di plastica, i crosetta rossa, però non c'è bei unghi. Sì, sì, sono più... Sì, ad ogni modo, insomma, non ha importanza è unghessa. Perché è l'azione che serve, naturalmente. Sì, però ti vedi... Antonio, è un ghessa del manico, doveva durare tutto l'anno. Infatti, cioè, è un po' uno stravolgimento. che bisogna ricordare la storia, giustamente. Sì, cioè, sarà anche una leggenda, perché cosa però è carina, è bella. Molto, molto carina. Mi diremo, trovo più, diremo, indicata questa, perché proprio scade il giorno del 25 aprile, il giorno di San Marco. Che nessun'altra, ma insomma, non vale la pena, insomma. Perché però... i popoli vive dei simboli, naturalmente. Sì. Cioè, mi ricordo chi mi diceva una volta che i gruppetti di Tose e Tose il giorno di San Marco proprio andava in piazza San Marco e oggi si metteva in scia e donne da una parte e donne e gli uomini da quest'altra. A un certo punto che andava il Toso, che magari quello che era antipatico, quello che era simpatico, non lo so, io andavo vicino con un inchino e gli offriva sto bocco, no? Che bello! Se a Tosa era di gradimento perché aveva simpatia o aveva gli occhi della vulcana e riceveva il bocco, se no si girava e non lo voleva. Poveretto, che sa come rimaneva male. Una tradizione così, ti vedi? Ma adesso no, non c'è più però. No, parliamo di qualche... Di qualche centinaio. Sì, qualche secolo fa. Sì, no, secolo no, no? Insomma, no. Insomma, una bella centenaria di anni, sì. Insomma. E penso un secolo di cento. Sì. Che gnocca che sono! Non importa, dai. Ecco, e comunque è sempre simpatica, una leggenda. Sì. Sai che non la sapevo mica io questa qua. Ma mi penso, Vara Gesi, che adesso la sappia più di qualche duni, perché sui giornali la mette. Questa storia, però non è se diremo che vada via proprio da come che è, perché che cambia nome ai vulcana e che mette un altro nome, che mette insomma, è un fiantin. Sì, la rifanno. Sì, la rifanno, magari cioè, dopo dipende, ti vedi i testi. Questa qua che ti ho detto mi è una storia che è passata anche oralmente e fa parte delle curiosità veneziane. Sì, sì, sì. Hai capito? È una roba che lo sapevamo da anni noi altri che è così. Dopo quello che mette il giornale, chi che è o chi che trasforma, non ho... Ma sai, i giornali vogliono cambiare ogni tanto. Sì, beh, mi cambia, mi mette la mia vulcana. Ah, certo, appunto. Dal momento che con Camido bronze sui occhi, chi se neri come il fuoco. Ah, sì? Allora ti chiameremo Vulcana. Vulcana, bene. Mettiamo già zingara a me per conto. E questa è la leggenda. Sì. Del boccolo. Del boccolo di San Marco. Cioè, avrebbe ti pensi che mica quelli che riescono a rancurare, faccio diventare secchi e metti in mezzo i fiori stalti. O se no, che ne gode bei, ma veramente quei originali, diremmo che no, imitazione, in mezzo ai libri. Ah, sì. Molto bei. Sì. Sì, fai come nel mio libro nel mio vecchio libro di latino. Sì, ecco. Solo che tu ci metti la rosa e invece che la pansè. Che metto il bocco. Va bene, allora adesso parliamo di San Marco. Sì, San Marco è anche qua tra storia e leggenda, chi che crede e chi non che crede, perché è fantasiosa, insomma. Mi vedrò una piccola premessa, che qui di San Marco non è la ricorrenza di un santo, ma è la festa di un evangelista, che è diverso. Perché Venezia, dopo vi dico, aveva in principio un altro protettorno era San Marco. Chi era? San Teodoro. San Teodoro. Il veneziano Todaro. signor Todoro. Ecco la corrispondenza, signor Todoro. Ma sì, che non niente a che farmi. No, sì, difatti, una dei docuone che si in piazzetta San Marco, che sarebbe dopo Leon, che è una chimera, che sarebbe Todaro, che non si fa niente Todaro, e rappresentaria un briero romano, un San Giorgio, anche che copa il drago, perché sotto io era un coccodrillo che non è un drago, era la testa di un can che non è un drago. Ah sì, sì. Ecco, allora adesso mi veso la leggenda di San Marco, sì? La prima parte, questa qua è scritta a me, con parole in fiantino, insomma, di conoscenza naturalmente, perché sì. Marco è arrivato a Venezia vivo, con già ancora in persona. Ah. No col corpo quando credo sta il trafugamento. Sì, sì, come dei do marinai. Io se proprio no, i do cose, io se proprio arrivai invece vivo. E questo siccome che arrivai in laguna. Allora, e a laguna ragionava quei murette vestie de verde. Dagli antichi isolotti solitari e lidi si coccolava con l'acqua un tocchetto di terra salvadega. San Francesco de Avigna o Vida in dialetto, che sarebbe sta proprio una isoletta che è ancora è isola di San Francesco de Avigna, che è ancora de Avigna. Resso sto fassoetto de erba che Marco, arrivando da Roma, el doveva far tappa al Tino, ma dopo aver vesa col mar una caigada, una bufera, una tromba d'aria, quello che ha trovato a letto, muovendo le ancore, è segato e stracca e indormensà sotto un albero di sta isola, cioè si arriva naufrago, sì, a Venezia, sì. Stanco, si è indormensà. E il suo dolce pisolar si sta rotto quando un bel viso di anzo dentro una nuvola ciestina, cosa fa? E che dà un sgorlon, dicendo che Pax tibi marce, evangelista meum, facendo che così una profezia è quasi l'angelo che dice, sappio Marco, tornerai to sandai sa pegare ancora ste isole, dove omeni savi che avrebbe fatto suso coi suori e sacrifici una città più bella dell'aurora e a più incredibile città dei città del globo. Venezia, naturalmente. Cioè, in sostanza, quest'angelo... Sì, che dà questa annuncia, cioè che ti torni qua. Tu torni qua. Io che ho fatto una previsione, mi ha detto ti torni qua, ha detto perché, adesso che sei perché. Allora Marco... Aspetta. Sì, dimmi. Franca, allora prima di continuare la leggenda, ci fermiamo un attimo per una canzone. Bene, sì. Di Salvatore Adamo, Com'ero vecchio. Com'ero vecchio quando non c'eri tu. facevo piccolo per non disturbare la gente. Lasciavo lo spazio a chi si credeva importante. E tutti i miei sogni li schieravo nella mia mente. Ma oggi mi ami e di colpo mi sento un gigante. Dio, com'ero vecchio quando non c'eri tu. Nemmeno nello specchio mi riconosco più. Dio, com'ero grigio senza i tuoi colori. È successo quel prodigio che si chiama amore. Dio, com'ero vecchio quando non c'eri tu. Nemmeno nello specchio mi La mia insegnante di dizione, di recitazione, diceva sempre che l'amore muove le montagne. Concordiamo. Quindi adesso stiamo ancora qui in studio e abbiamo sempre la nostra Franca. Franca? Sì, sono qua. Sei d'accordo anche tu che l'amore certo, muove le montagne? Certo, mi godito olè. col bocco in bocca. Ok. Qui. Allora, Marco... Ora che diciamo che sto angelo che dice che torneranno, Marco è ancora in sono io, e cambia di sera, e resta anche in mattonio, l'impedisce, fa conto, e vorrei dare una risposta, domandare che spiegazione, ma cosa fa l'angelo con una fiata di vento sparisce? Sai che ori cosa si ripeta? Spiriti. Spiriti, ecco, sì, spiriti sì. Che parla. Allora io, Marco, torna a mettere in moto la barca, remi e man, e torna a navigare, cioè torna in Rio, e torna da dove che si veniva, dall'Egitto, diremo. Dall'Egitto, sì, sì. Ma la sua vita cambia di brutto, e rimane a sotterra, e gli fa subito a pei, gli occupa. Oh, mamma mia. Sì, dopo ti spiego. Nel sonno eterno della morte, el viene se pei o ne accesa in Alessandria d'Egitto. O è accesa, no, quel che si è adesso, se sta una capeta. Sì, cioè, sì. Ecco, gran brutto momento per la comunità cristiana, perché i musulmani salvadeghi si godeva di fare un sacassan di ossi, femore e crani e buttare sotto e sopra tutto quello che era cristiano. E anche sta il periodo insomma che Cesare ne ne voleva. E, sì, sì, era il martirio dei cristiani. Ecco, sì. Questo, ecco, i martiri, questo è una roba che ho scritto mico, però è mia. Bene, bella. Adesso andiamo a un'altra... storia e leggenda. Benissimo. Sempre di Marco. Allora, quando io torno in Rio, che va in Egitto, che occupa, è l'anno ottavo dell'impero di Nerone, cioè era 73-74 dopo Cristo. Sì, sì. In quel di Alessandria d'Egitto, che si sta a staccare a testa con colpo di maniera, niente manco che il povero Marco Evangelista, morto martire e strassinato per le strade della città proprio nel giorno di Pasqua. Quando quell'epoca i celebrava la festa di Serapide. Sto Serapide era una divinità greca che gli egiziani si era tolta da stampo per onorarla e ori. Ah, hai capito? Ora sì, era, sì. Era festa pagana. Serapide. Sì, appunto, sto Serapide era in origine un dio asiatico e greco. Ma Tolomeo II è il faraone, diremo, sì. E non che importa niente, ciò che porta via, lo che porta in Egitto, e insieme al culto e alla devozione pagani festeggiava le sue cerimonie, insomma, pagane. Ma ti pensi che sto Serapide mi ho trovato dei stampi sui giornali, e che aveva, guarda, già stata divinità della greca, no? E che aveva Euriaga imitata, e che aveva un viso bellissimo, se è stata una statua di marmo, non so. Una scultura sicura? Ma bello, Zera per esempio, Zera a imitazione di Giove, come Bessa. Dio Giove. Il Dio Giove, sì, Dio Giove. E insomma, torniamo a studio asiatico, Tolomeo. Sti donati dei cani, dei pagani, dei infedei, che io aveva assassinato per questioni religiose, volendo far meglio sparire da sto mondo, Marco, io ho strassinato col corpo, sì, col corpo io ho strassinato vicino a riva del mare. Io ho posato solo una montagnola di fassine e che da fuoco per insenderirlo, cioè io cremava del mio... Sì, sì, ancora, ecco. Già allora c'era questa cremazione. Sì, beh, che c'era, sempre bruciava, dopo mi metteva sulle urne, perché vabbè. Cosa è che succede? Che nel momento che faceva sta mai grazia al povero martire defunto, è il miracolo sta che è il cielo che ha su un'altra caigata. Tutto brutto, tutto scuro, nuvole più che mai, e un scravasson di acqua tempestosa. Pioggia. Miracolosamente veniva a destuare a Bampa e ste fascine. Perciò prima ancora che se potesse rostire e far cenere del corpo di che benedetta anima. Perciò è la temporale piova da destuare il fuoco e Marco. E Marco non è stato bruciato. Ecco, ti vedi. Allora, però già era morto ormai. Sì, beh. Allora, i suoi discepoli che io aveva cristianizzato, convertita io a fede del nostro Signore, approfittando che tutte quei canage saracene ed era scampata via per non bombarsi, arriva da temporale, cosa di chi fa? E c'è, io tolgo uno e gli dà una sepoltura provvisoria sotto un muccio di sassi. Ti sai che una volta io usava, quando chi moriva così si era su terra battua, gli faceva busetta poi convergeva con sassi. Adesso sì. Ancora adesso gli fa su certi... E gli ha fatto lo stesso lavoro un caio. Come si usava? E in caude tanto, quando è vuri a zero in caimento su sta tomba, si sta fatto su una cesetta, cioè si è passato il tempo che ha fatto su una cesetta, come chi ha presto sti discepoli su di... con un materiale, non dico prezioso, ma di un certo valore artistico. Ste robe si andai avanti così, senza intoppi. Ma qua vi è il beo, che l'anno 827, no? Sì. È caifo di Saraceni, voleva un nuovo passo, sempre in Alessandria d'Egitto. E mancando che il materiale e materie prime, l'ordine di smanteare dai cesi cristiane, corone di marmo e tutto il materiale vario che trovava. In quei tempi non esisteva la democrazia che esiste adesso. Chi c'era paroni di fare tutto quello che voleva, senza che nessuno potesse protestarlo. Non bastava il dolore che aveva procurato i custodi cristiani, l'ordine di buttarsoso anche al sepolcro di Marco. Perciò che poche piere che gli ha messo su è buona e se la porta via anche io. Capita proprio in quel periodo che i due famosi mercanti veneziani si trovassero a Ori a girare da che parte quei navi. E trovandosi in mezzo a un'altra maignosa tempesta, gran tempesta. Sono tempeste sempre qua. Era e fui di vento, gastrassinai barche proprio su che coste saracene. Però, che c'era l'ordine di scantonare, di non fermarsi, di non approdarno. E neanche ancora di avvicinarsi, e appena c'era morto, gli copava. Mamma mia. Cosa te combina sti due veneziani, fregandosi del divieto, che viene una bella idea. Debarattare qui i custodi di sepolcri e portarsi Marco a casa. E qua che si sta il scambio, chissà fatto ori. Intanto chi aspettava che sbagliasse sta caigada, succede che si incontra con due preti guardiani di Acesita, che ormai era despoggia, non c'era più niente, no? E che passa per la testa una strana idea. Insomma, dopo averli imbriagati e insemeni con un muccio di ciacco e promesse, sborsa un po' di schei e doni da strapasso, barattando la reliquia. Perciò io richiedevo, sì, portavi via. E reliquia è stata venduta a sti uomini toghi, sì, che se la portà Marco a Venezia. Come se però chi passa per la dogana, perché c'è prima di partire dove passa per la dogana, cosa se chi fa? Senza essere fermai, i traffica sotto il naso di Febei e sacra reliquia, sconta sotto carne di porseo e coverta di verdure, foglie di cauli, non so cosa chi è. Anche se da ridere, sì, appunto. Sta cibaria ai musulmani che fa schifo, si stroppa il naso. E allora ti vedi che a un certo punto si mette a dire Kanzir, maiale, presto, via! E i gas hai passato. Carne impura. E i gas hai passato. Presto, via, gli affa franca, i carica a sesta e barche ciappa largo e a nave va secondo un verso casa. A Savezia. Perciò Marco arriva a Venezia il 31 dell'1 dell'828. però io arrivo su una Venezia, quella che all'epoca si poteva dire una Venezia pre-veneziana, perché aveva già un patrono o protettore in San Teodoro. Teodoro, appunto, non essendo ancora presente a Cesa per curare le liquide di Marco, e si sta messo sta bara, sta scatola, sta cassetta, io ho messo in parcheggio fino al 976. Però, mamma mia! Sì, io ho buttato qua e di là, capito? Finché nel 1071, io ho cominciato a far suso e accesa di San Marco. Questa che è adesso e la basilica? No. Anche qui c'era una chiesetta misera, degno, Piere, non c'era come che vediamo adesso, che aveva a pietra vista, capito? Sì. Io c'era il materiale, se dopo quei crociate, con i mercanti che cominciavano al suo edo, dove chi si andava, chi cominciava a portare su tutti i rovinassi che trovava, chi trovava de beo fuori, ti ha capito? I sì. marmi, le colonne, tutte che robe aria che ingrandiva, perché Venezia ha avuto anche il suo periodo del Medioevo, e il paese ducal non era così. E c'era un passo di legno, un castello, con i quattro torri, e che aveva un fonte elevatoio. Capito? Sì, sì, cioè, come che robe che si vede adesso, non sai che sia nato così, beh, fermo accesa, fermo così, insomma, che ho visto i suoi bei anni. Sì, pian piano, sì, si sono evoluti. Ecco, e io ho detto, sto benedetto Marco, si sta a buttare di qua, di là, di su, di giù, tanto è vero che quando chi va a tornare, quando chi va... Cioè, che è successo un altro fatto adesso, sempre sua storia. Intorno al 550, l'anno 550, prima che Marco arrivasse qua in Sesta, sì. che c'era un esercito dei Goti che veniva verso l'Italia a saccheggiare Ancaori. Ed era comandai da Totila, non so, noi che avevamo mai sentito. Sì, naturalmente. Ecco, da Totila, no? E si muove guerra contro l'impero romano. E che c'era ancora sotto il comando dei bizantini. A un certo punto i veneziani si stai chiamai in aiuto da un generale bizantino, Narsete. Ecco, Narsete era un generale bizantino che era contro i Goti. E ora, siccome che uno che aveva possibilità di avere, diremo, esercito, ha domandato aiuto a Venezia, ha domandato navi per l'equipaggio, per fare questa battaglia con sto Totila, no? Però Venezia è andata sì in aiuto, ma non con armi. Io che si arriva solo... Cibarie, che io accompagnasse dove che io diceva fuori dal mare, perché non c'era pratico dal mare, no? Ti ha capito? E altri bisogni assicurando che appunto i trasporti per via acqua. La logistica. Cosa? La logistica. Sì, mi interessava quello perché mi già abituai, no? E infatti Narsete si arriva trionfatore, cioè aiutare i veneziani, che ha vinto, che manda via Totila o Totila, come ti chiama. È successo che Narsete, trionfatore del conflitto, gavaria, secondo l'usanza sua bizantina, gavaria premiava Venezia per questa impresa con un dono profondo del riconoscimento, dedicando che a Venezia docese, una a San Teodoro e un'altra a un altro santo. Teodoro era un greco, era un santo greco di buona razza, e se sta così che si diventa il primo patrono e i venerava, i faceva festa a suo San Teodoro. Che era qua, non ti ricordi che giorno cadeva il santo? Ebbè, a San Teodoro non mi ricordo. Non ti ricordi? Sì, perché se è San Teodoro. Appunto. Dal giorno non mi ricordo, perciò Venezia, fin prima che arrivasse Marco, gli onorava, diremmo che faceva sì, festeggiavano San Teodoro. E c'era San Teodoro. E così, insomma, dopo intanto sto benedetto... Fra per i pesci e robi si riuscì a costruire questa piccola cesetta e io ho messo e io dico a Marco da San Teodoro. Teodoro e Cesa non è stata più, diremo, usata per i riti riti cristiani, non gli interessava più San Teodoro perché facciamo di un santo greco che avevamo un evangelista. Sì. E ora che ha cominciato a costruire le prime casette a Marco, no? Sì. Però è accesa, come ti dicevo, che era ancora fatta a misera di Piera Egno, e che subito per questioni politiche, perché ora dopo che c'era il comando mitico, che subito di incendi. Tanto è vero che ora Marco, io lo sconto, è sparito, non gli chiede più badà a Marco. Quando chi ha ricostruito è accesa, è stato così che non ci stai più buoni trovarlo. Oh, mamma mia, era sparito. Già era sparito Marco. Vedi che sei storie che neanche hanno... altro, che non si sa neanche... appunto, già sparito sto Marco. Marco che è sparito e ora ha cerimonie, feste, che non te dico, voti, e un giorno chi era in cede, chi cantava tutti i cedeu, da una corona, si muove una corona e viene fuori al braccio di Marco. Oh mamma mia! Dario, ti ha paura! Ma santa Maria! E ancora Righetta Racciose qua, perché quando chiudo io casconto in segreto. Infatti, ti è morto i tre dogi successivi e quelli che si arrivai dopo non si aveva più, no? Infatti, ti è in mureri, pestando, mettendo a posto, che sposta una corona, e ora io che torno attorno un'altra volta, io ho messo su un altro posto ancora. Mamma mia, povero Marco, quanti... Sì, finché dopo, guarda, quando che è accesa si è diventata cattedrale nel 2008, perché non era cattedrale a Ceresa Marco, ed era la cappella privata del doge, dove chi faceva tutte le funzioni... Sì, no, che non era neanche una parrocchia. No, niente, era San Pietro di Castello, a cattedrale, a parrocchia, diremmo. E ora era solo quando chi doveva partire per i crociati, con cui c'era festa, con le robe, e c'era tutto in chiesa, pop, clero, ti ha capito? Con Napoleone si veniva qua che ha dato un fiato di ordine, non lo so, insomma è diventata parrocchia, no, basilica. Ecco, era San Marco, che già era dopo che aveva pulsato a cripta sotto, che si sta, mi pare, Papa Giovanni XXIII, che era che volta. Sì, allora proprio... era patriarca di Venezia. Sì, prima di essere Papa. Che ha fatto fare una bea scatto di marmo e lo ha messo sotto l'altare dove c'è ancora adesso, insomma. Ma in sostanza la Basilica di San Marco quanti secoli avrà? Cioè, se è nata, fa conto, completa attorno al 1000. Mamma mia. Perché prima non è che c'era, prima. Ho capito, sì, pian piano è diventato... pian pianino ha avuto... stato, perché tanti dice che sotto San Marco che c'è tre cese, non è vero. Una è qui a San Teodoro, che da dentro il cortile di Palazzo Ducale si vede ancora una parte di muratura, perciò qui è già stata incorporata con il gai retto alla prima chiesa di San Marco, dopo che c'è stato l'incendio, e ha ricostruito e ora in grandia, e dopo che c'è l'ultima finia, che è come adesso, non proprio che ha completato. Sì, che adesso è la grande basilica, insomma. Cioè, adesso, io che ti pensi, guarda, che qui adesso andiamo avanti di qualche secolo, arriviamo al 1253. Che ora era già come adesso, diremo più o meno, sì, sì. Dopo, e festeggiava appunto sta commemorazione del santo. E ora che c'era un corteo e una processione che non aveva mai vista, sfiava a do 500 putei e teneva in mano la bandiera, altri 100 putei più grandetti con 100 croce d'argento. E non si è stadito che tra mezzo di ore che abbia partecipato manco qualche volta il giovane Marco Polo. Addirittura. A questa processione, sì, perché c'era l'epoca. Penso. Sì, e ora sta singolare cerimonia finiva nel canto dei laudi al doge, secondo sempre una formula bizantina. Queste sei parole che ancora adesso nelle cerimonie da messa cantata si usa a cantare. E difatti è vero, perché così veniva il patriarca qua a Marghera a far conoscenza delle parrocchie. Nuovo patriarca questo? Sì, Moraglia. Sì. Che c'era il megafono col prete che diceva Cristo vince, Cristo regna e Cristo impera. No, impera. Sì. E al nostro Signor Doge che diceva, per grazia di Dio, Duca della Dalmazia, della Croazia, dominante della quarta parte di tutto l'impero della Romagna, salute, onor e vittoria, San Marco aiuta, lo diceva. E Doge che a volte c'era, Ranieri Zen. Chi c'era? Ranieri Zen. Quando che sta questa festa qua, i a cantare e lodi sue. Ho capito. Ecco, capito. Ma che bella sta San storia. Marco proteggio, San Marco... Ma che bella sta... Quindi, ma sì. Voi veneziani siete devotissimi a San Marco, vero? Guarda, mi ti dirò la verità, non penso più di tanto, perché che se più è Madonna della Salute, che se è Cesare del Redentore, che sei Ascensa, che sei altre feste che cada vez passo fra vento. Addirittura. Perché adesso mercoledì con chi sarà messa cantata, che sarà tutte le sue cerimonie, per amor di Dio, benedizioni a fa, messa solenne, cantata. Pensi alla prima messa del patriarca al giorno di San Marco, se non è importante. Mamma mia, è la prima messa solenne che fai un nonno di San Marco. Però dopo che sarà mattina, siccome che c'è anche l'anniversario della liberazione, che ciò, sì. Venezia, che non che non gli importa la liberazione, ma siccome che San Marco ha tanti secoli prima della liberazione, perciò è una festa che è una ricorrenza, una festa che dire, pensi che farà l'alza bandiera, che sarà lo stesso, tutte le militari, le guardie, i lagunari, che sarà tutte che Ma tu parlavi anche della festa della scienza, Sì, la festa della scienza. Che, vabbè, adesso allora ci ascoltiamo una canzone, sì. Poi magari vediamo un po', di sentire un po' di questa festa. Sì. Allora ci ascoltiamo A che serve volare, cantata da Roberto Carlos. Veloce come il vento io correvo verso te, la strada sempre uguale scompariva agli occhi miei, ma che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Ti vedevo nello specchio, eri bella come allora, sembravi la regina del tramonto e dell'aurora, ma che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Ma nel fondo di ogni uomo la speranza sempre c'è, per questo che correvo come il vento verso te. Io volevo credere a un miracolo, chissà, io volevo credere a un miracolo, mamma, che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Io tornavo lentamente dopo aver visto te, la strada nel ritorno era lunga come mai, ma che serve volare, sempre volare, tanto il mio amore non mi vuole mai più. Eccoci di nuovo in studio, Franca? Mi godo smentegare un piccolo particolare su San Marco. In chiesa, prima di arrivare all'altar maggiore, sopra l'iconostasi, c'è un canton, c'è un bel mosaico, c'è un bel leone, grande, che ha. Leone con le ali? Un leone, cioè sì, il mosaico, sì, no? Sì, sì, proprio sì. Petà, sì, sì. No, diremo un rilievo, proprio un leone che ha, se che ha verte, cioè un bel uomo, se. Chissà perché? Perché con una satta, non so se è a destra o a sinistra, la porta in avanti e raffigura il braccio di un uomo. Ah. Un braccio di un uomo, qua mam proprio, e da un poco di mam. Ah. Cioè San Marco come uomo che porta il pieno d'amore alla sua città e alla sua chiesa. Sì, che Venezia può succedere questa roba qua. Caro. Davvero, è un bel mosaico, un leone grande, sa, ciò che tutti gli angeli, i serafini, tutta che a squadra, i quattro evangelisti, quello che da parte, non fa parte di San Marco, è proprio un leone, e questo braccio di uomo con la mano che esposa il poco. Alla sua amata. Alla sua amata Basilica e alla sua amata Venezia. Pensa un po'. Ciò che ne sarebbe tante robe, ma cosa ti vuole? E lo chiamano Leone di San Marco, no? No, niente, è un leone, ah. Sì, no, ma perché? Mi pare di aver sentito... Guarda, no, Leone di San Marco, se quello che è le figlie, che è dappertutto, Leone di San Marco. Che, perché dice che anche Leone, cioè Leone San Marco, che abbia come simbolo Leone, perché era figura, il suo ruggito, l'urlo suo forte, sarebbe la voce del Signore, di Gesù, quando che predicava che a sua voce andava in alto, diremo che già la sentiva abbastanza, non che Gesù sigasse, sì, sì. E che era proprio perché la sua voce, la sua forza e la sua potenza doveva svolare in alto e farla sentire da tutti. Non capivo cosa voleva dire il leone di San Marco, tante volte senti dire il leone, no, leone alato. È il simbolo, Gesù è un simbolo, diremo che si petta dappertutto. Ho capito, invece questo qui che... Questo quasi è un decoro che fa parte del mosaico del di mosaico. Accesa. Accesa. Della Accesa di San Marco. Sì, è proprio un mosaico che fa parte di Accesa, che poi è Accesa, guardando bene, è mica tanto grande se è Accesa. Ah no? No. È Accesa, guarda, è a Saria, sta attenta. È a Gassolo che è 2500 tra corone e coronette. Mia. De marmo, di naraba, l'abastro, tutte che robe. Dopo è a Gassolo, e quasi tutte l'Arca di Noè. Perché aveva tutte le bestie che c'era dentro l'arca, siccome che c'è tutte le cattedrali che c'è col mosaico, Ravenna per esempio, Santa Apollinare in classe, c'è tutto mosaico, che c'è tutti gli animali, che c'è pecore, che c'è boi, che c'è tori, che c'è cavalli, che c'è osei, che c'è tutto. Perché carà. L'arca di Noè? Cioè. Sì, è tutta. E a Saria, come cattedrale, è la più piccola d'Italia. Ma pensa, un po' la più piccola d'Italia. Sì, è solo un onga varano più di 70 metri, 77 metri. Ma senti, la più piccola d'Italia. Ed è Arghessa, che... ed è Arghessa 52. Però ciò è un concentrato, scrigno, è uno scrigno, giusto? Un scrigno, perché gli ha messo di tutto là dentro che è accesa. Ma che ti pensi, Vare, che dove c'è il tesoro di San Marco, che mi nota, che c'è la cattedrale proprio che gli dice che si sentava San Marco quando che predicava. Fino so i discepoli di tutti gli evangelisti, perché per esempio su un'altra chiesa che c'è quella di San Piero, un po' di marmo, tutto inciso. Non era una carichetta di legno. Come fosse? E dice che chi se avesse avuto da sentare su che ha carica di marmo, perché c'è un marmo che viene miracoloso, che passasse mal di schiena, tutto subito. Oh, mamma mia, che bello, che bellezza! Sai quanta gente andrebbe a sedersi là? Mamma mia! Tanta gente che sapeva di mal di schiena. Io volevo solo una piccola informazione, poi che dopo finiamo. Sì. Perché hai detto che... Cioè, che per voi è molto importante la festa della scienza? Cioè, è importante per il fatto che c'è una ricorrenza storica, perché Venezia ha avuto la supremazia sulla Dalmazia all'epoca, e rendemo, fa conto, verso l'anno 1000. Ho capito. E se venio qua a fare la pace, come si dice in inglese la pace, Antonio? Peace. Un summit, sì, un summit, ecco. Esatto. E se venì qua a Venezia, nella Basilica di San Marco, se venio Federico Barbarossa e Alessandro III, il Papa. Ho capito. Alessandro III. Un incontro al vertice, diciamo. Un incontro al vertice, che dopo io va a firmare in Basilica, che sta l'incontro, e è il Papa, come ringraziamento doveroso al Doge, e regalerà dei vescili, insomma, dice che ha fatto scambiare, e in più è il Papa che regalerà un anello. Non so se era di oro, se era di ottone, se era di acciaio. Un anello, insomma. Un anello. Questo gradito sposerà il mare, perché il giorno di Assenza, fatta Italia, ha avuto vittoria verso i confini di Jugoslavia, no? Dalmazia, Croazia. E ora lui sposava il mare come ringraziamento di queste vittorie. E rindava ogni anno col cintoro, che non era come quello che vediamo adesso, era un altro tipo di barca, però insomma meno barocca, ecco, manco oro. Sì, sì. E andava al porto del mare, proprio al Lido, dove c'è San Nicolò, e ai buttava una corona di fiori o di alloro, non so, e i benediva sto mare come protezione per le sue avventure che aveva, qui partiva per i commerci, per battaglie, per tutte che robe. Ora, avendo che regalà il Papa sto anello, detto, e con questo detto, sposerai il mare. Ora ogni anno, il giorno di Assenza, che se è capitata quel giorno della vittoria, questa cerimonia, no? Franca, sei uno scrigno di... No, non sei che sono. Mamma mia, è che noi ti abbiamo rubato tanto tempo, ma no. Sarai anche stanca? No. Comunque noi ti chiediamo scusa, ma è sempre un piacere. No, perché no, se lui ti va bene. Molto piacere, è sì. È un piacere averti ascoltato e... Noi ti ringraziamo tantissimo. Io vi ringrazio voi altri. E alla prossima volta. Ricorda, posso una piccola parentesi? Io un saluto particolare a tutti i tuoi ospiti che ti ha avuto fin adesso e che ti caverà. E un complimento a tutti, per ognuno per la sua materia, la sua cultura che porta sulla radio. Grazie, anche mi che sono curiosa, mi piace tutto. Grazie mille. E saluto a voi, buon bocco. Grazie. Ricordate il bocco. Ciao, grazie. Ciao Franca. Ciao. Bene, ringraziamo Franca. E prima che tu legga qualcosina, ci ascoltiamo un'altra canzone, dai. Certamente. Allora, Massimo Ranieri ci canterà Sogno d'amore. Perché sogno d'amore vivi ancora sul cuscino accanto a me? Ed io non ho le ali per volare veramente insieme a te. Ormai si alza il vento. Ed eccoci di nuovo in studio e volevo leggervi, prima di concludere, di una raccolta di fiabe e tiritere, Ghegera una volta, di Michela Bruniera e Gianfranco Siega, con illustrazioni di Paolo Mameli, Filippi Editore Venezia. Pieretto Pometo. De come che Pieretto, disubbidiente, na vecia carampana lo gavantà e lo ga messo drento un sacchetto tutto nero. Ghegera una volta un puteo che aveva nome Pieretto, un fiarre bego, ma in frondo proprio del buon cuor, che aveva una mamma e un papà che voleva tanto ma tanto ben. Un giorno, datosi che voleva andare a giocare fuori da casa, sua mamma che disse: va pur fuori, ma sta attento a ste tre raccomandazioni che te faccio. Primo, non state a rampegar sui alberi. Secondo, se ti vedi a vecchia carampana, scampa subito via, perché crea la ciappa ai putei e li fica drento sto sacchetto nero e poi la si ricusina e la si rimagna con sin sguassetto. Terzo, non state a allontanare che otteciamo torna subito in drio a casa ed è corsa. Ma Pieretto ascoltava sua mamma con la reccia aperta e con st'altra stropada, perché il gera drio sta attento se i suoi amici gera arrivai. E niente niente, penna che aga finito da parlare, dopo aver gridito a sua mamma: «Sarò obbediente!» E scampa subito fuori a zogar. E dato che non vede i suoi amici, si ferma proprio da Driol del canton de casa. Vi scende un bel pomerco tutti i suoi bei pommi mauri. Go proprio voggia de pommi. E pensa, e subito vorrei avergene uno sotto i denti. E così scominsi a fare un salto un drioman d'estaltro per arrivare a tirargene zoso al manco uno. Ma i rami già erano massa alti, e siccome che non arrivava, desmentegandosi di quello che aveva detto sua mamma, svelto che fa un gatto e si rampega su pal pomer e dal dito al fato e si trova solo all'albero. E intanto che scominsi a rosegar che il benedetto pomo, contento che pareva d'aver cavato a balea de oro, el pensa, par cosa mai mia mamma non la vuol che vaga sora gli alberi? Se sta così ben qua de sora, mi vedo tutti e nessuni, invece me può vedermi. Così che pareva lui, secondo se debbo intender, ma invece dopo un fia, vien vanti tabacando, sotegando, passo falso, passo bon, nave ciassa col baston, nave ciassa carampana, sdrendenada, coi denti longhi na spana. Che la loccia subito, e pensando d'aver quasi i maccheroni in bocca, la si ferma vicina del pomer, scondendosi ben de sotto de attraverso un sacchetto tutto nero nero. Vardio, adesso me lo porto via, mio cugino e mio magno, a pensa, e intanto che cascava e bave da bocca. Pieretto, che la vede ben anche lui, e gli amò subito de morsegare il pometo, e resta là, duro come un baccaià, imbacchettata a paura. E invece ora, con la voce sfesa, la principia a chiamarlo: «Pieretto, Pieretto, buttime giù un pometo!» E Pieretto: «Mi no che non lo butto giù, sennò mi fichi in sacchetto!» «Ma no, Pieretto, mi no che non te fico in sacchetto, e poi ti vedi sacchettiti!» E difatti la sega aveva sconto sotto la traversa. E intanto che la dise così, che era busiera e fintona da che avecciassa, la puse al baston e la se prepara a far conca qua traversa come per avvantare il pometo. «Dai, Pieretto, dai, buttami giù sto pometo!» Pieretto, da sora all'albero, e pensa che non corre nessun rischio, e che non c'è niente da male buttargli un pometo da distante, consiglia o tira. Ma invece, qua vede il pomo che arriva, la fa finta che scampa dai mani un pinso di attraversa, e così il pomo va a finire per terra, e il rodo è via un fia più lontano. «Ah, Pieretto mio, il pometo me se casca per terra!» Così se l'agna invece. «Tireveo su», che risponde Pieretto. «E come gusto che fasse, Pieretto mio?» Che dice invece: «Non ti vedi che sono tutta goba col baston? Che me se me cuffo e vago a finir per terra? Se ti fossi un bravo puteo, ti me daresti una tina man. Che mi sono povera invece? E ti veniaresti tisoso dall'albero a rancurarmi sto bel pometo?» A Pieretto, che già era un puteo de buon cuor, sta vecchia che fava peraltro anche un fiato e peccà, e ora vien zoso dall'albero e va a rancurarghe il pometo per buttarghe, ma stando ben tento a starghe da lontan. E a vecchia: «No, no, non stammi a buttar da lontan, perché sennò il casca da nuovo per terra!» E per imbrogiarlo meglio, la va avanti come un rosario a dirghe: «Vienti, dai, vienti, vanti a portarmi, o Pieretto, vienti a portarmi o sto pometo!» E ora Pieretto, anche se aveva il scagotto, gli aveva appena un fia più darente col pomo in man. «Mettio qua», che dice a veccia, e intanto a fa finta da tirar fora da sotto attraversa una sporta de tea, ma invece che a sporta, a tira fora il sacchetto nero come il carbon, e svelta co fa un lampo, davanta Pieretto per mezza anima, e a cassa dentro. «Ai, ai, povero Pieretto mio, tutto scuro dentro che il sacchetto, tutto stretto, tutto nero, Pareto, che non sapì che santi chiamar!» Che simpatiche sono queste storie. Sono estremamente simpatiche queste leggende. Erano quelle che ci raccontavano quando eravamo, ma sono bellissime. Niente, noi stiamo proprio in conclusione, abbiamo diciamo un timing pressoché preciso ormai, insomma, ci stiamo abituando. Questo è il nostro spazio. Ma dirò che siamo anche abbastanza in grado di gestirlo correttamente, con l'aiuto naturalmente del nostro grande regista, evidentemente. E non ci resta altro da fare che ringraziare per l'attenzione che ci mostrano costantemente le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Speriamo che siano sempre di più. Ma vogliamo, abbiamo la presunzione di sperarlo, diciamo. Beh, insomma, sai, un po' di ambizione, un po' di presunzione assolutamente. Ci vuole, sì, ma, diciamo presunzione tra virgolette, ecco. Antonio, io ti ringrazio. Io ringrazio te e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Naturalmente. Tu sei un altro angelo custode. Bah, ringrazio, di poco conto, ma va bene così. Allora, assieme a te e assieme al nostro regista Eddie Deitch, diamo a tutti una buona notte, come al solito. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.